come intendi? Tutto brillante, tutto forte, parlo che ti avvicina a me. No, ma io ti sono a casa mia, comunque vuole tutta la frequenza. Buongiorno. Ciao Mario, ciao, buonasera, ben sentito. Ben sentito, 9:20, radio tutto il 5, come sempre. Ma è giusto, sempre allerta di io. Vediamo un po' che fate un altro becco, le farò entrare, o io. Anche questo fa parte del gruppo Vacanza Piemonte, avanti. Dimmi se lo fa passare un presentatore con tutti i quattro picchiati, no? Attacca, attacca, non mi sembra che si faccia l'origato. Quando ho lavorato da tutti. Quali tutti i ragazzini? Sono tutti i paroni, non lo devo fare, sono ancora ragazzini. Ammazza Marco, ma che lavori, Mario Marco? Si conferma, non è Mario perché lui c'è Antonio Riserva, Luca e poi c'è, chi c'è? Ah, c'è Giulio, poi c'è Gianni Barramobile, non è perché lui cambio. Vabbè, ma io sono amico con tutti. Ehi, carissimo, buonasera, come va? E io che ne più questa carota che fa la ruota, e tu che partivi? Ciao, e appendi molto, in tram, molto bene a me. Tanto non mi ha riconosciuto sicuramente. Niente, avanti, Giulio Dollaro. Mario, avanti Mario per... Sto già mettendo una cosa. Mario, ti ricordo io. Avete parlato insieme? Sì, adesso Mario, non te ne ricorda più di me. Forse che me ne ricordo. Non ti ho perso la memoria. Ma la tua non è assente, ma la memoria ancora non l'ho persa. Ma no, per carità, adesso mi stai essendo quello, ma dopo 12 anni anche più simile, però. Io te lo riconosco il tuo subito, dopo lo più lungo a questa parte, dai, avanti. La tappa lo più lungo, io lo so già. E poi, già ne vieni, vieni tu, ti conosco, e poi viene un altro, però, no, che si può, è Musilliglia, che hanno cercato la patente. Ah, che hanno le soldi, dico. No, negativo, bravo due. Ah, bravo due. Non posso che sta scomparsi, poi io sto pieno, i vesti mi hanno male, e lì abbiamo rifiutato tutto. Zappa zappa, no, io erano solamente spinti, dentro un mobile, ben conservati. Niente, tutto lì. Ah, vero. E che mi hanno convinto, sennò ci sono anche altri passatempi. C'è il computer, c'è la polizia, quindi sono belli passatempi. Ma io non mi accaglio, io il computer lo uso per qualche cosa, perché se tu e guardando gli apparecchi e poi qualche volta ne sei chiato, ma non lo uso per tante cose, qualche lettera che devo fare, ma non so cosa ho fatto il computer. No, anche a me mi piace l'apparato, però siccome era un periodo che c'era un po' di mailame in giro e poi c'erano quelli che dicevano che non vedevano il televisore, allora io ho lasciato un po' tranquilli, dai. Sì, non me ne va a vedere, mi si toglie, perché se tu quel palazzo troppo, figurati. A quanto pare adesso mi hanno lasciato qualche chilo del signor capo della pena, ma se sopra quello si becca la bella denuncia. Vabbè, mi sono incontro, ma guarda. Anzi, tutti. Ma, un po' giù, ma perché? Sì, allora, ma dove sei? Sì, ma, a casa di mamma, sempre lì. Vai, vai, lo dai sul fatto. Sicuramente mi stai a lavorare. Per quale? Se non è una roba, se non è una roba, se non è una roba, ma cosa c'è? Perché anche il segnale che è stazionale, poi c'è arrivato un altro, se tu inizi a un bel affare. Ma cosa posso me la farà comprare? Una nuova sinistra. E a me quanto mi senti lì a Porto Torre? Allora. No, per un controllo, qua, dai un rapporto. Ma guarda, guarda, sono a torre di controllo, sono Marco Scorpio io. Marco Scorpio si è arrivato a 925 qua. Qua, nella zona sotto i bibliati, qua si è arrivato alla cartolina per Porto Torre, dai. Ciao, va bene, allora va bene, a dopo. Sì, però, perché non controllo, capo? 59, spaccato, 9 spaccato, la modulazione amplificata va bene così, non esagerare se no ritorna tutta, va bene. Ecco, vabbè, se è fatto, mi si spacca di tutto. Cosa fate, sono 5 watt, neanche. Ma che cosa c'è da dire, controllo di controllo, tu? Poi continuo a tutti, sempre lo passato, sempre passato gli auguri di buon anno a tutti, c'è Marco, c'è Claudio, c'è Gianni, c'è tutti la ruota bianca. Auguri, auguri, auguri, da Marco Scorpio, auguri. Tutto il passato, lo faccio, auguri. Rattimo, stai andando a casa mentre mi li voce. Ah, posso, non mi sento, non mi sento, non mi sento, non mi sento, non mi sento, dice che sono già stati fissati, quindi non vale fare soccorsioni, prima era più libero, adesso sono andato alle case. Ha ragione, in mezzo alle case non va bene, è una bombone, cosa una casa. Prova Marco. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, situazione. 10, 20, 30, 40, 1, 3, 4, 5, scappia, scappia, scappia, scappia, scappia. Prova Marco. Stava già provando, ve l'ho parlato io, non l'ho sentito. Arriva che lo stesso segnale, ma abbiamo una differenza, c'è una differenza tra me e lui, che con voi può giocare ma con me no. Quando vedono uno che si trova, allora lì si trova. Poi è pronto, tranquillo, i miei 10 fatti morati, non è che tu mi sei facendo un amico. Cucini che abita lì sopra e niente, invece non ho trovato nessuno. Sarà per la prossima. Ok, dai, no, sapete che ho ripreso a modulare, e stavo ancora aspettando un'antenna, che ha modulato l'antenna, perché lui adesso si è trasferito in paese, a Sindoli, che ha fatto un'attività di lavoro lì, che ha aperto, e dunque chiuse anche lì a Sindoli, lì alla residenza lì adesso, o meglio il domicilio, e dunque sta aspettando che i di questa terra per poter andare a casa, però si è pensato dalla macchina che si fa sentire. Capito? O Mario, perciò adesso non so, sono altri giorni che non lo sento, non lo vedo nemmeno, l'ho visto saranno una settimana fa, perché lui abitava sempre i genitori sopra di me, non sopra la mia bottega, di conseguenza quando passa mi saluta, tutto lì. Ok, bene bene. Comunque sono saluto quando lo vedo e mi dico che lo ha interessato, quindi almeno si farà sentire. Va bene. Marco, io ti consiglio a quanti giorni volumi in quella montagna da su. 9:30 arrivi, forte, forte e chiaro, amplificato alla grande. 9:30, bellissimo segnale, molto bene, molto molto bene, ma arrivate tutti con segnali interessanti. Gianni che era lì a Portatore, che lo ricevono intorno a 9, non so se è arrivato, rilanciava a lui. Non risponde, evidentemente si hanno già l'hanno fatto, si è rimasto Luca, mi sembra, Antonio, Riserva, so che è entrato anche Antonio Bontino, forse mi sto sbagliando, non lo so, comunque vediamo un po', vai tu, e nel momento lo chiami tu ancora, quello. Buonasera. Buonasera, vai tu, amico. Buonasera, ben sentiti, saltoni, auguri, buona fine, buon principio, Gio Maria. Ciao Gio Maria, saltoni, auguri anche a te, ci sentiamo domani, ci facciamo stasera gli auguri, così almeno siamo sicuri di essere fatti. Ok, Luca, vai Luca. Io ci fumo niente, la faccia di la rompo. Chi ti è rimasto? Boh, Mario. Ma Luca, auguri. Chi è? Chi è? Chi è Marta Burone? Ciao Cugano! Ho sentito l'opportato! Ecco, questa tomba, oltre tomba! Mi sembra la vostra Maria Mante, così è! Guarda, lui la conosce già! E beh, come va, Cugano? Tutto bene? Ma... se ne abbiamo già ne mangio, se ne venerano già ne mangio, se no mi fanno fare il tavolo e sto andando. E buonasera anche Antonio, Marco mi sembra, voi, c'è se poca gente che io non ho ascoltato e sono entrati così, abusivamente. Bene, ritrovo il sommario, sai girare, vai. Cosa posso girare? Tu, Luca, sta mangiando. Cosa ti ha salutato poco fa? Adesso vediamo se c'è Fabio, vai Fabio. Oh Mario, guarda che la radio è bassa, cos'è il basso? La bagoglia, massimo. Ma te la salutiamo bene, salutiamo benissimo, ma è bassa la radio, come prendi tu Giovanni? Cos'è, mi sento sentivo oltre la tomba, adesso ha cominciato a migliorare però, Riprendi Mario, via un po'. Ho sentito qua, salutino allora, ci risentiamo. Bene, bene, magari domani così ci possiamo fare gli auguri. Sì. Vai qua, vai Marco. Sì, ecco qua, ho un attimino sto facendo la cosa. Gianni che sono fatto, Claudio rimane in corrente. poi io credo che tutto il cambio. Tu nel mosso, Mario! Mario! Cosa stai uscendo, Non so come si fosse la potenziale, è sporco, fa un casino quando schiacci, con queste grandi potenze di munizione, eccetera, eccetera. Però quando sento, ho un certo cambi, ti appassionano, guarda, devo dire che mi riflettono anche, e dunque ascolto bene volentieri, figurati Marco, che ti dici? Non papà, adesso ti guarda, avanza, ma dico di nuovo, non guarda tutto, è così, si fa la guerra all'ultimo sangue. Io Marco, a proposito di televisione, ma sai come l'ho sentito? L'ho sentito veramente domenica scorsa, è entrato per un attimo e lo stesso incontro del mio figlio, poi che gli ha detto che era nella sua dimora, lui mi ha confermato di sì, sempre al suo posto, poi ancora non mi ha chiuso e basta, niente più, è entrato stesso controllo e poi niente in più, fino a che tutto più avanti, tutto purtroppo, io capito di sì, non si può immaginare. Di quale zona sto parlando, e io abito davanti alla chiesa, perciò siamo in linea all'aria, a un tiro di fuoco, ma non lo so sentito, e tutto il mio marco, lo senti? Oh, guarda, neanche io l'ho più sentito, boh, ma così, magari fra un po' riguarda come fa lui, di solito lo so, ma ogni tanto fa la sua, e quando, boh, chi ha l'ultima volta, mi ha chiesto, ma ha detto, oh, boh, così, no, non era un po', boh, ha poco posto qua, la bambina, guarda, e mi tira qua, oh, non era particolarmente interessato, ma guardi, qua la riprovarando la cosa, che forse non si fa poi risentire come tutti i tempi. Va bene, quando Luca sentiamo forse un attimo di quanto vediamo se rientra Antonio, se rientra Claudio, altrimenti riprendi tu Luca, va. Faccio stare a mettere a posto il 3.300, prendo lì a 1.300, cava, boh, tira giù da me, uno spumantino, ma un mezzo, non qua, da un'altra parte, boh, adesso vediamo, va, perché mi sa tanto che piove qua, mi sa tanto, tu cosa ne dici Marco? Oh no, il papà non l'ha fatto così un po' di buona, è troppo alto, l'uomo, non vedo che sta correndo, ma prima sta purificando, adesso Thank you. la potenza, la banda cittadina, deve essere secondo il mio punto di vista in questa maniera. Poi naturalmente si sa come si sente qualcuno si è fatto interpretare tanto, si dà una grattatina, ma io stamattina gli ho letto quello che avevo un punto di vista. Se non la vedo di cantamentata di quella nostra, così il turista sicuramente ne passa per un po' di tempo, ho capito Luca, riprendi. Scappa, che mi chiama? Sono stato tutto solo. Sembra che dentro la cattura di Bandoro. Guarda, c'è un segnalone, perché è forte il segnale. Ma la radio non anda. Tu confermi, Giulio? Confermo, Antonio. Io sono un radio piacevole, assolutamente. E sento il fracasso e basta. Sai che a lungo andare, perciò, nel tempo c'è il contrario molto, tra le onde sonore. Like attivo, c'è stata la sua modulazione di Mario, ascolta, ma non se ne è accorto. Stiamo chiedendo un QRK, non so se mi ascolta, come mi ascolta, giù all'Alghero. Aspetta, ma fu due. Poi di cos'è la logica, Avanti, ciao, buonasera, buona, la fa fortuna, ogni tanto, ma questo lavoro però, la fai fare. ripeto, segnale 7, qua a Sassari, però radio 1, radio 1, sicuramente non ho le batterie oppure le metti in chiuso. A me non mi ricevi il larghero. La radio è? Radio 5 buona. Va bene, avanti Giulio, tu lo occupi? Adesso questo tuo passaggio lo senti, attenzione, da fornire 3 punti, Giulio non la usa a carta, gli scappa, vai. Luca nello stesso. C'è stato un break, prima, avanti, chi è break? Ah, vabbè, Luca sta puntando, non è ancora quello per favore. Chi sei? Ti sono Franco. Franco chi? Delta 1. Vai, Franco Delta 1, vai, tu muovi ben Giulio, voglio Franco Delta 1. A fondo strada, sì. Ecco quello che devo sapere, soltanto tu e chi è gli altri. E Giulio nulla, avanti Giulio. Guarda, ok, ciao Franco, Delta 1. La radio 7 è Super 5, se c'è tempo non lo so perché non l'ho guardato. Se vuoi, se è d'accordo, vieni avanti, io ti vado subito, volentieri, vai. Grazie Giulio, sì, prova, con quale Giulio ti ascolti. Oh, capa, 9 più 20 fino ai punti. Se mi vuoi cambiare, per cortesia, ti ringrazio, vai. Guarda, 9:15 tu sei parata con me, ma dopo noi c'è anche un altro ruotato al vostro Sassari, tu mi hai voluto guardare al vostro ritorno. Ok, ho capito, vabbè, sei amissimo comunque, mi accontento. Ok, Sacco Delta 1, ripeti pure che hai fatto, in compagnia di Amati Antonello Bonfoglio, che stava cercando di mettere a posto il microfono, ma ci sono riuscita quando sembra. Avanti Franco e tu fai girare per Mario, vai! Sì, ok, radio, pardon, tutto a posto, dove ho fatto il Franco una prova. Niente, se tu non hai guardato la parte mia, non hanno, poi fa migliore. Ma ripeti Mario. Aspetta! Franco, prova a chiamare un alghero, guarda se lo senti. Io lo sento basso in radio, la segnale 7 qua, prova tu. Ma non lo so perché c'è anche un tranco, ma puntate al nostro strato, dovevo ruotare, la nostra non è più per ruotare, sto facendo la prova. Giulio, tu quello di Aghero non lo senti allora? Ma non è fatto a non sentirlo se 9 più 30 qua, per carità. Ma ti vuole Aghero? 9 più 30 sta arrivando qua. Ciao Baffo, buonasera da Claudio Barbiero. Ciao Claudio, un po' non hanno fatto adesso con il cucino, no? Un cambio! Vedete se c'è qualcuno anche se... stasera c'è qualcuno anche. Avanti, Valdiero! Ciao Baffo, salutici di cordialità, guarda, non riescono a soprammodolarti neanche da Sassari. Quindi posso, puoi immaginare il segnale che stai arrivando qua da casa, come sempre. Buonasera, cordialità, ben sentito e tantissimi auguri. Sono anni che non ti sentivo. Comunque arrivi sempre magnificamente bene come vecchi tempi. 9 più 28, il tuo segnale qui a casa, carboanti sempre alto, punta di Chiara di Ciocca. Ok, sono entrato per salutarti perché gli amici di Sassari qua non ti sentono molto bene, ma io ti ricevo magnificamente bene. Evidentemente le nostre zone combaciano come sempre, per Alghero non ci sono problemi. Ti saluto e lascio qua il QSO agli amici di Sassari. Ti auguro il buon fine anno, buon inizio, salutami tutti lì a casa. Spero rivederti presto in verticale. Ti rimetto ancora il microfono scusando gli amici e ascolto il tuo finale e poi lascio il QSO qui agli amici di Sassari. A te Baffo. Ok, stato buono. Da fuori, forza pure, dopo tanto tempo. Ma non puoi sentire. La stessa scuola, con l'ombra di stessa cultura. E poi, giù fuori strada, ma la moto Addio Valentina, avanti per te posta. Va bene Carlo, se ti saluto, faccia pure la versione di scusate, ti saluto ancora. Riprendi Carlo. Ehi, scappa, questo è il baffo. Non ci sono problemi, il tuo segnale è uguale al mio, eh. Il tuo segnale è uguale al mio, 59 più 30 anche tu. Come sempre, naturalmente, come sempre. Ti salutano tutti gli amici di Cacciari, qualcuno ti ascolta 7, qualcuno 5, però la modulazione per loro è bassa. Io ti ascolto bene perché c'è il segnale alto e quindi ti ascolto molto bene. Ti saluto ancora, vi saluto a Baffo, 2 da Alghero, a tutti quanti. C'è chi arriva, chi non arriva, eccetera, eccetera. Quindi un caloroso saluto e va bene così, come diciamo noi ad Alghero. Io sto arrivando lì ad Alghero tra un paio d'ore, Baffo, quindi al limite avremo modo di sentirci in radio nuovamente. Va bene, allora il microfono per Luca, fai girare in studio, rimango in quarenti, ti saluto Franco, ti ho detto Fra, già preparando le antenne sai, guarda che ti portano figa, non fare come ho fatto io la prima volta, prima la cassa, poi le antenne, ok, allora un caro saluto a tutti, divertitevi, continuate le battaglie, io sto uscendo di casa. Mi sono allontanato perché mi stavo preparando. Ciao a tutti, buon divertimento, arrivederci, buon anno, ci sentiamo al prossimo anno, arrivederci. Ciao classe, rispondi. No, non è che lo sto preparando, ma lo sto provando a portare una in cantina. Ti portano figa, ti ho detto, lascia le storie lì. Vabbè, buon anno classe, rispondi. Correttivo a parte mia, devo andare a continuare. Rispondi a tutti e buon anno. Ciao Flavio, buon pomeriggio, adesso siamo alle prese. Riprendi Giulio. Ok, ciao Flavio, allora, buona questa grazie adesso al vero, ciao a domani, diciamo, tutti facciamo gli auguri. Ciao anche a Delta 1, Franco, Delta 1. Salutoni anche con te, avrei piacere se ci trovare, quindi ci possiamo fare gli auguri in diretta. Anche io ho fatto un po' così perché sono venuti i miei parenti, qua a quest'ora si comincia a quanto sembra la festa, visto che stanno cominciando ad arrivare. E speriamo che funzioni tutto alla perfezione durante la nottata qua. E poi si vedrà anche domani. Ok, allora io faccio questo, ciao Mario, ciao Luca, ciao Marco che si è l'ascolto, ciao a tutti, insomma, un saluto particolare a tutti, sulla sezione di mano e ne faccio il cuore di ascolto fino a lui, Luca, e poi il Giulio. Vai Luca, sai girare. Ok, dai, ciao Giulio, anche a te, buon anno, solito, un anno migliore. E niente, sotto mi auguri ancora a casa. Alle prossime, anche io ne approfitto, faccio gli auguri a tutti gli ascoltoni, e non Mario, auguri anche a te, buon anno, Antonio Bonpugno, a Antonio Riserva, a Claudio, no, buon anno, a tutti, anche io chiudo, salutone, salutone. Ok, ciao, allora ci sentiamo, ciao a tutti ancora, ciao. Anche a Baffo, dai che, a Baffo 2, auguri anche a te, buon anno, questa volta no, mannaggia. quattro sono un giorno e due anni fa. Ma soltanto, non fa quattro anni ancora, non ci vediamo. Tutta ancora non ci sentiamo pure. Ma no, grazie, ma non c'è più nessuno alla zero, non c'è più nessuno alla zero. Ma sta funzionando ancora la sensazione come no. È negativo, cioè il volume è basso, cioè il volume è basso, è negativo. Non so, avanti Maffo. Oh, ciao Maria, io ho detto che da parecchio tempo che non ci sentiamo, ci aspettavamo in sede, non sei venuto. Tu, Pommao e gli altri amici. Non capisco niente, vabbè, chiudo, sarò qui.